proviamo. Come nasce una canzone? I grandi successi di Marta Cagnola. Siamo ancora insieme per una nuova puntata del nostro Come nasce una canzone, alla ricerca delle origini dei grandi classici della musica leggera, con autori, produttori, arrangiatori, a volte nomi poco conosciuti dal grande pubblico, a volte nomi molto noti che però hanno lavorato a lungo anche dietro le quinte, come il protagonista di oggi. Piero Cassano è nato a Genova nel 1948. Le sue prime band sono Le Onde Sonore e i Jet. Ma il grande successo arriva con i Mattia Bazzar, con i quali vince il Sanremo 1978. Nel 1981 lascia il gruppo e inizia a lavorare dietro le quinte come autore, tra gli altri per Mina e Anna Oxa. Nel 1984 assume la produzione artistica di Eros Ramazzotti, di cui è anche compositore. Nel 2000 si riunisce ai Mattia Bazzar, con cui rivince il festival nel 2002. Tutto è nato grazie a mio padre, perché lui non voleva che io facessi il musicista, la musica per lui, che era un macellaio di Genova vicino a Boccadasse, era un qualcosa di veramente fuori dal suo concetto di vita e che altro. Lui voleva che io facessi il bancario. Papà mi rincorse una volta che scoprì che una sera io gli avevo detto che andavo a ripetizione e invece ero andato alle sale prova Gaggero di Genova, mamma mia, nei vicoli storici. Ricordo come fosse in quel momento. Lui tirò giù la saracinesca a mezz'asta e mi rincorse con un mattarello di quelli che gli serviva per battere le fettine di carne. Io ero spaventatissimo, ma veramente. Però poi alla fine lui mi disse: ti vedi, in genovese, ti vedi, ti tepi giù puia, ti sei preso paura, ma amico puia di quello che ti vuoi fare in ta vita, ma io ho paura di quello che tu vuoi fare. E di lì io gli spiegai poi nei giorni a venire che la mia vita avrebbe avuto un senso più dietro a un pianoforte oppure dietro ad una chitarra che non dietro al banco del macellaio. Pensa che il primo organo Hammond che io ebbi nella mia vita me lo regalò poi mio padre. In quel momento stava andando a mille la musica progressive e io insieme ad Aldo Stellita, amico per sempre veramente, purtroppo scomparso molto prematuramente, e con Carlo Marrale, a quei tempi ci chiamavamo Jet, non ancora Mattia Bazzar, il nostro batterista era Renzo Pucci Cochis, che poi quando noi decidemmo di diventare Mattia lui non volle, anzi addirittura per staccare tirò giù una saracinesca definitiva e andò a lavorare con l'ATM. Per cui io un bel giorno, che non lo vedevo da una marea di tempo, me lo ritrovai alla guida di un autobus per le strade di Genova. La Durim ci portò a Sanremo con un brano che si chiamava Anicanao. Sanremo, però i jet non funzionano. No, i jet non funzionano, ma noi in quel momento siamo anche autori, per cui si passa da il progressive alla canzonetta, forse quella che tu come autore in cuor tuo non avresti mai voluto scrivere. Contattato dall'allora direttore artistico Felice Picaretta, il quale mi propose di scrivere una cosa fuori da ogni momento pensabile, cioè l'inno della Juventus. Juve, Juve. Ma tu sei juventino? No, io sono genuano sfegatato e sto patendo, guarda, genuano come Baccini, ma prima ancora Fabrizio De André. Mi chiamava Fabrizio Peo alla genovese, Piero e Mattia, che a quei tempi, agli inizi, gestivano una sala prove a Genova Sturla, ebbero la fortuna di avere i New Trolls e Fabrizio De André all'interno di queste sale prova. E tu pensa, Fabrizio ci guardava molto in silenzio, lui non amava parlare molto, e si accorse che noi in quel periodo eravamo in forte disavanzo economico, per cui ci mancavano veramente dei quattrini. Guarda, una mattina lui arriva: Peo, vieni in pochi, Piero, vieni qui, ho deciso di fare una cosa, ti pago subito tutto quello che gli altri hanno prenotato in ta sala, ti pago subito tutto il periodo che noi abbiamo prenotato. Il primo conto corrente, sto parlando come Mattia Bazzar, il primo conto lo aprimo con un assegno firmato Fabrizio De André. Era una persona unica. Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, stare tutto il tempo con è difficile dire i Mattia Bazzar sono quelli di, perché avete scritto una serie di successi continua per anni. Sì, io con Aldo e con Carlo misi su questa band con Antonella Ruggero, che ai tempi dei Jet ci aiutava con una voce sublime che poi tutti hanno avuto l'opportunità di conoscere. Erano momenti in cui i gruppi erano composti solo da elementi maschili, ma in quel momento i Mattia sperimentavano. Se per caso un giorno o l'altro ti trovassi solo, sai, senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai. E se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno, giorno. E che fermare non potrai mai. Vive, vive il mondo, non girare intorno, ma entra dentro al mondo, dai! Avevate a disposizione la vocalità di Antonella che, ad esempio, in C'è tutto un mondo intorno fa cose che pochissime, credo che sia una delle canzoni più difficili da cantare del pop italiano. Antonella riusciva a darvi uno strumento pazzesco, a creare un'atmosfera anche tutto attorno alla canzone, perché ogni volta che creavate una canzone voi creavate un mondo intorno. Quindi E dirsi ciao, con la quale avete vinto Sanremo, è un mondo. Mister Mandarino è un altro mondo. Vacanze Romane è un altro mondo. Sì. Erano delle sceneggiature. Sì, sì, è vero. Avevamo creato un mondo intorno alla voce di Antonella, che era poi non solo la nostra frontwoman o chi poteva spiegare al meglio il nostro mondo creativo. Antonella aveva delle canzoni veramente particolari e create sulla sua vocalità. Io pretesi che le canzoni fossero firmate dalla famiglia Mattia: Cassano, Marrale, Stellita, Ruggero, Golzi, il mondo dei Mattia. Io mi ricordo che a quei tempi eravamo fidanzati tutti, chi più chi meno, e mi ricordo che il discorso comune delle nostre fidanzate era: vivete più tra di voi che non con noi. Cosa succede nell'81? Purtroppo un qualcosa si era rotto, sia in senso artistico che della vita, della quotidianità. Però è un periodo che rimpiango, pur avendo avuto grandi collaborazioni nel proseguo della mia carriera. Sono stati il primo gruppo italiano non solo ad avere un grande successo all'estero, ma anche a sperimentare. Io non so perché frase che la mia TV consiglia tanto, ma per ora canto e dopo si vedrà. È un'Italian sinfonia, canto di scaramanzia. Cerchi un posto al sole, ma calpesti. Poi arriva un altro legame particolare, che è quello con un ragazzo romano che si chiama Eros Ramazzotti. Eros vinse la categoria giovani a Sanremo con Terra Promessa di Renato Brioschi e di Alberto Salerno. A quei tempi io ero ancora seduto sul mio divano di Cologno Monzese, dove abitavo, e stavo riflettendo su quanto la vita aveva deciso per me. Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie. Ora voglio di più, una storia importante. Quello che sei tu, forse sei tu. Eros che arriva da Terra Promessa, successo enorme, però lì va concretizzato e arriva una storia importante. Sì, Eros alle volte ci dava degli spunti che noi, io e Adelio, capivamo come avrebbero potuto avere una propria evoluzione. Bastavano veramente tre note, diventavano l'ispirazione. Le due canzoni hanno qualcosa in comune, hanno una strofa piuttosto pacata, intensa, sì, in cui Eros era, insomma, all'epoca era proprio l'idolo delle ragazzine più giovani, era tormentato, e poi c'era questa esplosione nel, sì, ritornello. Sì, ma anche però un modus operandi, scrivendi all'interno della canzone, perché a quei tempi le canzoni erano tutte strofa e ritornello, strofa e ritornello, quindi A e B. E in quel momento, quando la canzone apri le tue mani, ecco, lì ci fu una parte che noi abbiamo sempre definito C, mentre lavoravamo sia con Cogliati che con Eros che con lo stesso supervisore che era Roberto Galanti. E beh, era un cercare di scombinare un po' quella che era stata fino a quel momento la scrittura, il modo, la stesura delle canzoni. E quindi questa canzone per la prima volta si compone di tre parti. Una parte molto molto piccola, ma che a noi serviva per poter partire con un inciso ad esplosione e che poi sarebbe stato il tormentone un po' di tutto il brano. Forse noi dobbiamo ancora crescere, forse un alibi, una bugia. Se ti cerco ti nascondi, ma poi ritorni. Ma è passato alla storia che questo inciso ti sia venuto in mente grazie a un coro da stadio, è vero? Ma non un coro, a quella che era la tromba. Io ero a San Siro e si sentì in lontananza una tromba che faceva para para para para para para para para, e di lì chissà mi rimase in testa, e ritornando dietro al pianoforte, in un modo, con un tempo, con un ritmo un po' più lento, venne fuori fermati un istante chiaro, e questo è proprio un momento di leggera follia. Qual è un'altra canzone che ti metti al pianoforte, la suoni e lì dentro c'è proprio Piero? Una canzone che ho scritto mentre i miei figli, Gian Claudio e Lorena, dormivano. Lorena poi ha continuato a lavorare con me, invece Gian Claudio fa il fisioterapista a Imperia. Loro stavano dormendo e io in cuffia ero in camera, perché Gian Claudio amava suonare la batteria, aveva una batteria, sai, coi tamburi a rimbalzo finti, e io ero lì e mi venne fuori bom bom bom pam pam pam bom bom bom pam, che poi divenne sono umane situazioni, quei momenti tra di noi. E io mi ricordo che alle 4:30 Gian Claudio si svegliò, io non so in che modo, ma penso perché c'erano altre cuffie sparse lì in camera, e mi disse: "Boh, questa è forte." E io in quel momento non gli diedi molto, sai, col classico dormi, e poi invece questa divenne Cose della vita, addirittura poi cantata in duetto con Tina Turner da Eros. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Sì, da un po'. Sono umane condizioni, stare bene oppure no può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, stato mai? Dove siamo stati? Cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Hai scritto per tantissimi. Hai scritto per Mina, ad esempio Rose su Rose, che aveva fatto anche la sigla, sì, a Sanremo nell'84. Sì. Anna Oxa. Due sono le canzoni. Quando nasce un amore, travolse sia me che Delio Cogliati. Perché pensa che quella canzone nacque, ed è per questo che molto probabilmente io sono legatissimo, e quando ho l'opportunità di poter suonare mi metto al pianoforte e la faccio, perché è una canzone nata in 10 minuti. Stavamo lavorando al progetto Anna Oxa, avevamo delle canzoni ma mancava una canzone che potesse definirsi la punta di diamante, il gioiello. Ci mettemmo io ed Elio, io incominciai a suonare questa melodia ed Elio, di lì a poco, gli ho visto prendere carta e matita. Non ci fu bisogno di tagli, di cucire, di disfare, di imbastire. Tant'è vero che da quel momento mi chiamarono Taylor Man. Su misura. Prendendomi un po' in giro per i fondelli. Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore è un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Circa un 2 anni, 3 dopo mi arrivò in ufficio un fax di un artista tale Riccardo Montaner, il quale mi scriveva tra lo spagnolo e l'italiano: caro maestro, ti devo ringraziare perché io ho preso la tua canzone, l'ho tradotta, le ho dato il titolo Quando nacen amores e ho venduto 1,5 milioni di copie in tutto il Latino America. Amore mio, intenso e puro, siento che vivo. Quando te miro, respiro. Amore eterno, dame una excusa para amarte otra vez. Dopo tanti anni da autore, ritorni nei Batia Bazar e voglio chiederti che cosa hai provato a rivincere Sanremo. La cosa più strana di questa mia vita artistica, io ero uscito dai Mattia e da quel momento mi ero messo praticamente sotto il palco, io mi ero messo in platea, ero lì ad applaudire le persone con le quali avevo avuto la fortuna di collaborare e di lavorare nel 98. Giancarlo Golzi mi richiama, mi dice: Piero, siamo in un momento terribile. Aldo, una settimana prima di andarsene, chiese a Giancarlo di ricontattarmi. Lui, prima di andarsene, volle che io andassi da lui. Lui era ricoverato a Udine e fu un momento veramente di grande emozione, perché io rividi Aldo e capii che ormai non c'era più nulla da fare. Prese me e Giancarlo e ci guardò negli occhi e disse: beh, io la mia strada la conosco, so qual è. Insieme abbiamo fatto un'altra strada, quella artistica, e vi chiedo una cosa per mio figlio: vi chiedo di non abbandonare e di non lasciar cadere nel nulla, queste le sue parole, di non lasciar cadere nel nulla tutta la vita fatta insieme e tutto l'impegno che abbiamo profuso nei Mattia Bazar. Chissà cosa c'era sul palco quella sera del 2002. Sì, veramente. Avete ascoltato Come nasce una canzone, i grandi successi di Marta Cagnola. Produzione audio Paolo Corleoni. Realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italia. Tutte le puntate su radio24.it.